2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi una nuova puntata di 2024. Benvenuti o bentornati. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Potete raggiungermi scrivendo a 2024 scritto in cifra 2024 e radio24.it, oppure potete utilizzare Facebook o Twitter. Anche questa puntata sarà disponibile nella nostra edizione Super Podcast, tutte le nostre interviste in versione integrale. Oggi parliamo di mezzi di trasporto e di come la tecnologia sta cambiando questi mezzi di trasporto. Arriveremo alle navi, cercheremo di capire come la tecnologia cambia l'esperienza di un passeggero su una grande nave da crociera appena varata, appena inaugurata. Ci occuperemo di aerei e di aeroporti, e anche in questo caso l'uso della tecnologia è sempre più importante. Tra poco parleremo invece di camion, perché anche in questo settore l'elettrificazione procede molto velocemente. Adesso alcune notizie selezionate durante la settimana, riassunte nelle nostre Digital News. Digital News. Lo sviluppo della tecnologia passa molto spesso anche attraverso le regole, e allora è una buona notizia che dal prossimo anno molto probabilmente ci sarà la possibilità anche in Italia di sperimentare sistemi avanzati di assistenza alla guida e anche sistemi di guida autonoma, grazie ad un emendamento alla manovra economica che fa riferimento a soluzioni di smart road, quindi strade smart, e quindi anche di tecnologie di connettività e di sensoristica per l'infrastruttura. Questa è una notizia che commenteremo ovviamente anche in futuro, quando ne sapremo di più, visto che ci dovranno essere dei provvedimenti che dovranno essere presi dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nella corsa verso l'elettrificazione, una buona notizia arriva da Milano, dove la società che gestisce il trasporto pubblico, l'ATM, ha annunciato che dal 2020 verranno introdotti solo autobus elettrici, e in 10 anni i 1200 mezzi che circolano per Milano dovrebbero essere tutti a propulsione elettrica. A proposito di mezzi da trasporto elettrici, da pochi giorni Tesla ha esteso anche ad alcuni paesi europei la possibilità di prenotare il proprio camion elettrico, si chiama Semi, che costerà 170.000 euro e verrà prodotto dal 2019, almeno questa è l'aspettativa, poi probabilmente, come abbiamo visto in altre occasioni per Tesla, slitterà di un po'. Parliamo della tedesca Daimler, che ha annunciato di avere acquisito la maggioranza di Chauffeur Privé, una startup francese che esiste dal 2011 ed è una sorta di Uber in Francia. Daimler è molto attenta e attiva nell'evoluzione dei servizi di mobilità. Ricordiamo che possiede MyTaxi, che è una popolare applicazione per chiamare e pagare il taxi in molte città del mondo, e anche Car2Go, che è uno dei principali operatori di car sharing al mondo, attivo anche in alcune città in Italia. Car2Go che però ha dovuto gestire questa settimana un mega blocco di tutti i sistemi che hanno reso inutilizzabile in tutto il mondo il servizio per circa 14 ore. La competizione e le aspettative nei servizi di mobilità sono tuttavia molto elevate, tanto elevate che la cinese Didi, che è il principale concorrente di Uber, ha appena annunciato di avere raccolto fondi per 4 miliardi di dollari per accelerare l'espansione. Una notizia che riguarda i social network e la musica, i cui sviluppi non sono ancora ben definiti, alcuni non sono stati nemmeno annunciati, riguarda Facebook e l'etichetta musicale Universal Music, che hanno firmato un accordo di licenza che permetterà agli utenti di Facebook, ma anche a quelli del gruppo, quindi anche di Instagram e anche di Oculus, di caricare video con la musica degli artisti della Universal senza problemi di violazione dei diritti collegati. Finora i sistemi automatici che controllano le violazioni delle licenze cancellavano i contenuti che appunto non potevano essere perché mancavano di licenza. Un accordo simile è stato firmato pochi giorni fa da YouTube con Universal Music, sempre Universal, e anche Sony Music. Un'ultima notizia che è un'ulteriore conferma dell'importanza che ha oggi il software sull'hardware. Apple ha ammesso di ridurre la frequenza del processore per far sì che l'autonomia dei suoi vecchi iPhone, di alcuni vecchi iPhone, possa restare la stessa nel corso degli anni. Una notizia di cui si sta discutendo moltissimo. Ci sono stati vari articoli in giro per il mondo che ipotizzavano questa attività su alcuni smartphone, su alcuni vecchi iPhone. Apple questa settimana ha ammesso di fare appunto questo, tutto guidato dal software, per cercare di ottenere la stessa durata della batteria anche in smartphone dove la batteria comincia ad invecchiare. Ricorderete che la scorsa settimana ci siamo occupati di motociclette elettriche, perché la buona notizia è che è stata scelta un'azienda italiana per produrre le motociclette elettriche che verranno utilizzate per un campionato mondiale prodotto dalla Dorna, la stessa della MotoGP, a partire dal 2019. Energica Motor Company sarà il fornitore monomarca di questo campionato. Se parliamo di automobili, uno dei megatrend è quello dell'elettrificazione. Ne parliamo spesso, anche perché ci sono spesso molte notizie. Dicevo la settimana scorsa che se dovessimo star dietro a tutte le notizie che riguardano ad esempio accordi oppure progetti per installare colonnine elettriche per creare una rete di distribuzione e di ricarica dell'energia elettrica per le automobili, dovremmo veramente parlare molto molto spesso, perché ci sono notizie di questo genere tutte le settimane. Dicevo, uno dei megatrend è l'elettrificazione, l'altro è quello dei sistemi di assistenza alla guida sempre più evoluti, fino alla guida autonoma che arriverà tra qualche anno. Poi vedremo come e quanto si diffonderà, anche in base alla regolamentazione che dovrà cambiare. E poi l'altro megatrend è quello della connettività di bordo. Tutte queste cose sono strettamente connesse, collegate tra di loro, perché una evoluzione influenza l'altra e viceversa. Allora, quasi tutti gli sforzi e moltissimi investimenti sono rivolti alle automobili. Poi ci sono, come abbiamo detto la settimana scorsa, anche le motociclette e gli scooter che stanno affrontando questa trasformazione verso l'elettrificazione della propulsione. Ma ci sono anche i camion. Sono stati fatti degli annunci a partire da Tesla, ma ci sono anche altre start-up che puntano a realizzare camion, mezzi pesanti per il trasporto delle merci. Ma tutti questi sono annunci, anche quello della Tesla. Ci sono stati alcuni grossi gruppi internazionali per le consegne che hanno già annunciato che vorranno diventare clienti del camion della Tesla. Ma invece noi vogliamo parlare di una cosa che esiste sul mercato, perché da pochi giorni Mitsubishi Fuso, che fa parte del gruppo Daimler, marchio storico giapponese, ha cominciato le consegne in Europa, in Italia a partire dal prossimo anno, del primo camion elettrico della serie E-Canter. È una prima assoluta in Europa e ci dà un po' il senso di che cosa sta succedendo nel mercato. Ne ho parlato con Enrico Ferraioli, che è responsabile marketing di Mercedes-Benz Truck Italia. Sì, Enrico, si tratta effettivamente di un camion a tutti gli effetti, è un camion da 7,5 tonnellate, quindi i classici camioncini che vediamo in città a fare le consegne, ma anche nella distribuzione, diciamo, a corto raggio. È un veicolo quindi da 7,5 tonnellate che si muove completamente in modalità elettrica. Quindi è alimentato da un motore da 180 cavalli che a sua volta prende energia da 5 batterie. 5 batterie che sono completamente integrate nel veicolo, sono, diciamo, montate all'interno del telaio e generano un wattaggio da 13,8 kWh che permette un'autonomia di circa 100 km. Quindi 100 km, parliamo di consegne tipicamente in città. Sì, perché considera che le statistiche europee ci dicono che a livello di distribuzione 100 chilometri coprono il 90% delle esigenze dei nostri clienti. Sì, sì, non c'è dubbio che l'autonomia dovrà crescere e crescerà nei prossimi anni, ma è anche vero che soprattutto nelle città e soprattutto per le auto di piccola cilindrata, autonomie dell'ordine di 100-200 chilometri, che quelli critici sostengono siano un limite ancora oggi per le auto elettriche, autonomie del genere sono più che sufficienti per molte persone e anche molti veicoli commerciali per 2-3, addirittura in alcuni casi una settimana. Quindi questo forse non è un problema, tant'è che ci sono dei clienti, e soprattutto clienti che devono fare consegne in città, che richiedono questo mezzo che ha un centinaio di chilometri di autonomia, perché magari l'autonomia di un giorno e durante la notte si ricarica senza problemi. Un commento sulla domanda che c'è da parte del mercato di mezzi di questo genere. C'è oggi una grandissima domanda di tecnologie ecocompatibili, sostenibili, c'è una grossa richiesta di riduzione delle emissioni inquinanti a livello locale e anche di silenziosità, perché non dimentichiamoci che i veicoli elettrici garantiscono la possibilità di fare consegne anche per esempio in orario notturno, senza il tipico disturbo che hanno i veicoli a motore termico. Sì. Quindi la domanda è forte e devo dire che anche a livello di costi di gestione i veicoli elettrici possono portare notevoli vantaggi, e oggi ovviamente la gestione dei costi è un elemento fondamentale per i nostri clienti. Ti posso fare un esempio: consideriamo che il risparmio dei costi di gestione si aggira intorno ai 1000 euro ogni 10.000 chilometri, e questo ci permette di arrivare a un pareggio nei costi di gestione, quindi avere un vantaggio già dopo 3 anni di utilizzo del veicolo. Quindi questo mezzo, come direi la stragrande maggioranza se non la totalità dei mezzi elettrici, ad oggi costa di più del corrispondente a motore termico? Assolutamente sì, oggi i costi ovviamente sono maggiori per un tema legato prettamente alle batterie. Pensa che nelle batterie ci sono dei metalli nobili, su un veicolo come il Canter elettrico abbiamo circa 500 kg di batterie, quindi il costo aggiuntivo per forza di cose c'è, però poi questo costo aggiuntivo viene bilanciato da una maggiore semplicità del motore elettrico, che richiede meno manutenzione, e ovviamente dal poter essere alimentati dalla corrente che è disponibile nella normale rete elettrica, e quindi ad avere poi complessivamente dei costi di gestione notevolmente inferiori. Ora ci trasferiamo in aeroporto. Non possiamo dire che prendiamo il camion per andare in aeroporto, ma anche per il trasporto pubblico dei passeggeri già oggi si sta passando lentamente, perché lì ci sono problemi anche di budget dei servizi pubblici, ad una propulsione ecologicamente più sostenibile, che è quella del metano o gas liquido. Ma nei prossimi anni, già il filobus è una cosa vecchissima e lì stiamo parlando di propulsione elettrica, ma senza passare per un'infrastruttura come quella dei fili, che alcuni vorrebbero riprodurre anche nelle autostrade, ci sono stati fatti degli esperimenti in giro per l'Europa, anche per quanto riguarda il trasporto pubblico si arriverà all'elettrificazione. Però ci trasferiamo, in questo caso fate un po' voi come, in aeroporto, per parlare di come la tecnologia sta trasformando il nostro viaggio. Tutta una serie di passaggi dobbiamo fare da quando entriamo in aeroporto fino all'aereo, e di questo si occupa SITA. Saluto Sergio Collella, che è il presidente di SITA in Europa. Benvenuto 2024. Grazie. Diciamo subito due parole su quello che fa SITA, di che cosa vi occupate. Siamo il braccio tecnologico delle compagnie aeree, degli aeroporti, e gestiamo tutta la digitalizzazione del viaggio aereo, del trasporto per i passeggeri e per i nostri clienti, che sono le compagnie aeree e gli aeroporti. C'è un pezzetto di tecnologia di SITA in tutti i paesi del mondo dove atterra o decolla un aeroplano. Esatto, noi abbiamo 2800 clienti nel mondo, operiamo in più di 500 aeroporti e in 200 paesi, quindi ovunque c'è un aeroporto c'è un po' di tecnologia informatica, di digitalizzazione di SITA. Due parole su questo settore, su questo mondo che cresce. E questo è un dato interessante e anzi probabilmente crescerà sempre di più anche grazie alla tecnologia, dovrebbe diventare tutto più facile, più semplice, più affidabile. Allora, ha assolutamente ragione, è un settore in crescita e non ci sono così tanti settori nel quale si aspetta una crescita costante sui prossimi 20 anni. Oggi nel mondo ci sono stati nel 2017 4 miliardi di passeggeri che hanno preso un aereo. Nel 2035, cioè fra 20 anni, si aspettano quasi 8 miliardi di persone che prendono l'aereo. Quindi proprio una prospettiva di crescita costante, perché è un'industria che è popolare, cioè la gente è felice, contenta di prendere un aereo per andare nel posto dove vuole andare. E quindi la domanda continuerà a crescere per i prossimi anni e si aspetta questa crescita in maniera lineare in ogni paese, non solo nei paesi in via di sviluppo, ma anche nei paesi un po' maturi come il nostro. L'utilizzo dell'aereo è sempre più presente, cioè, in ognuno più normale, cioè, più normale. È una crescita spinta soprattutto dal business, quindi persone che lavorano e a causa, diciamo, della globalizzazione dei mercati è necessario viaggiare in altri paesi del mondo, o siamo più ci piace più fare i turisti? Tutte e due, cioè proprio sia il business che il turismo portano questa crescita e la vediamo, come dicevo, in ogni paese, in ogni settore. E quindi bisogna accompagnare questa crescita, no? Gli aeroporti non sono estensibili in maniera infinita. Se prendo l'esempio di aeroporti nelle nostre città europee, per esempio a Ginevra non si può creare una seconda pista di atterraggio, di decollaggio, per una semplice ragione fisica. Quindi quello che dobbiamo fare è, portando la tecnologia, di permettere di aumentare la capacità, perché i flussi sono più rapidi, perché le partenze sono più lineari, e quindi la volontà è proprio, grazie alla tecnologia, di permettere di avere questa capacità superiore. Sì, una delle esperienze con le quali ci dobbiamo scontrare quando andiamo a prendere un aereo è che, a differenza di altri mezzi di trasporto, dall'autobus alla metropolitana al treno, per arrivare all'aeroplano ci sono una serie di passaggi che sono cresciuti, diventati, si sono moltiplicati, ma sono diventati anche più complessi negli ultimi 10, 15, 20 anni. Certo, 30 anni fa prendere un aereo era più facile, oggi ci sono controlli di vario genere. Ecco, su questo punto che cosa state facendo? Come sta migliorando questo percorso che noi dobbiamo fare, la tecnologia? Lei ha assolutamente ragione, ci sono tre elementi di preoccupazione principale per il viaggiatore quando vuole prendere un aereo. Primo elemento è la gestione della sicurezza. Sì. Secondo elemento è la gestione del proprio bagaglio. Il terzo elemento è la gestione di una perturbazione, cioè un ritardo e l'impatto del ritardo. Queste sono le tre cose che dobbiamo rendere più lineari possibile. Sul primo punto della sicurezza, ovviamente l'aeroporto deve essere un posto sicuro, quindi i controlli alle frontiere, il controllo al momento del check-in, al momento dell'imbarco, devono essere fatti in maniera ottimale. Certo, però anche più veloce possibile, perché tutti esatto. Noi da un lato diciamo che vogliamo sicurezza, però poi diciamo quanto tempo ci si impiega a fare la fila. Esatto. Non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena, insomma, ecco, quindi. Assolutamente. Forse questo si può ottenere con la tecnologia. Quindi che cosa si potrebbe fare? E questo è anche reale, cioè per esempio il controllo alla frontiera, anche qui in Italia, se guardiamo l'aeroporto di Roma, di Bologna e di Napoli, SITA con questi aeroporti ha costruito la possibilità di passare il controllo frontiera quando si è un cittadino europeo con un passaporto elettronico in maniera automatica. Quindi non si passa più davanti, volendo, alla polizia per avere il controllo del proprio passaporto, ma si passa attraverso un gate elettronico che, attraverso il riconoscimento facciale, permette, verificando anche sul passaporto, un passaggio molto più rapido. In media si calcola che si passi in 20 secondi questo gate di controllo alla frontiera elettronica, quando il passaggio manuale attraverso il controllo di polizia è piuttosto un minuto. Quindi sì. Anche si guadagna abbastanza tempo. Quindi queste cose esistono già? Esistono già, operative. E anche in Italia, assolutamente. Questo è proprio, per, se posso, per il passaggio alla frontiera. L'ideale è quando tutte le tappe di controllo che sono normali al momento in cui si arriva in un aeroporto finché non si arriva all'aeroporto di destinazione diventino automatiche. E questo si può fare con il riconoscimento facciale e cita per esempio in Australia, nell'aeroporto di Brisbane, realizza tutte queste tappe in maniera automatica attraverso il riconoscimento facciale e quindi si può dire che il proprio boarding pass è diventato il proprio viso, il viaggiatore è riconosciuto grazie al proprio viso in tutte le tappe di sicurezza che ci sono in un aeroporto. Certo, quindi uno può passare oppure viene ci sarà anche un sistema automatico per cui viene avvisato un addetto se uno non può passare perché c'è qualcosa che non torna. Dunque abbiamo toccato il tema della biometria. Ci sono altre tecnologie? Perché una delle cose a cui ci hanno abituato gli smartphone, oltre al riconoscimento facciale con gli ultimi smartphone, ci hanno abituato al riconoscimento dell'impronta digitale. Viene utilizzata anche quella? Sì, assolutamente. Ci sono tre tecnologie che oggi sono veramente valutate in maniera molto attenta, con vantaggi e svantaggi per ognuna. C'è il riconoscimento facciale, c'è il riconoscimento dell'iride, dell'occhio, sì, e l'impronta digitale. Allora, se guardiamo queste tre tecnologie, l'iride è una tecnologia estremamente precisa, ma molto costosa da implementare. Sì. L'impronta digitale, al di là di qualche problema di igiene, perché si chiede alle persone una dietro l'altra di appoggiare la mano, quindi può creare anche un problema di igiene, è una tecnologia che non piace tanto all'utente finale, no? Perché c'è questa sensazione di essere schedato. Sì. Il riconoscimento facciale è una buona alternativa, scusi, una buona alternativa che permette di avere un ottimo livello di riconoscimento, quindi di bloccare per errore con un livello molto basso, e di essere accettate in maniera positiva perché l'utente in fondo è abituato al proprio smartphone che riconosce il proprio viso, quindi perché no anche in aeroporto. Lei diceva prima che un'altra delle nostre preoccupazioni è ovviamente il bagaglio. Sul bagaglio che cosa si può fare? Soprattutto bagaglio non a mano, perché il bagaglio a mano ce l'abbiamo a fianco a noi, quindi se non lo perdiamo rimane vicino a noi. Guardi, il bagaglio è chiaramente uno degli elementi di stress del viaggiatore più visibili, del passeggero più visibili. Lo si può notare quando, al momento in cui bisogna entrare in aereo e non c'è abbastanza posto, si richiede di mettere in stiva il proprio bagaglio, sembra di lasciare il bambino al suo destino, no? Perché è proprio un elemento di stress, ritroverò il mio bagaglio quando arriva, non sarà perso, eccetera. Quindi anche qui la digitalizzazione, l'informatica, la tecnologia deve portare una soluzione. Ah, ci sono già esperimenti di soluzione per questo, quindi l'idea è di mettere una pulce intelligente, uno smart chip sul bagaglio, un RFID, su tecnologia di radiofrequenza attaccato al bagaglio, che permette di far sì che il bagaglio diventi intelligente e che quindi comunichi la sua posizione dando anche l'informazione al passeggero che il bagaglio è stato caricato in stiva, che quando arriva a destinazione nell'aeroporto è al posto giusto e nastro giusto, esattamente. E questo è anche un elemento che può dare meno stress al passeggero che sa che il bagaglio viaggia con lui. Sì, sì, sì. Anche il costo della perdita del bagaglio è molto alto per le compagnie aeree, perché ogni volta che il bagaglio è perso bisogna riportarlo al posto giusto, spesso c'è un taxi che lo deve portare a casa del passeggero, quindi ha un costo incredibile. Sì, sì, sì. E quindi un business case anche abbastanza positivo su questo. Sì, sì, questo è infatti interessante, ma ci sono già oltre delle sperimentazioni anche dei casi concreti di questi chip a radiofrequenza che vengono, questi adesivi che vengono appiccicati sui bagagli e servono per tracciare il bagaglio molto in maniera molto più efficiente rispetto a codici a barre, cose del genere. Allora, qui la difficoltà è di avere una tecnologia comune per tutte le compagnie aeree e tutti gli aeroporti. Certo, qui è anche un'infrastruttura comune, adeguata, uno standard uguale, perché il bagaglio un giorno viaggia con una compagnia aerea, il giorno dopo con un'altra compagnia aerea, quindi bisogna avere questa tecnologia comune. Quindi anche qui società come SITA possono aiutare a creare questo ecosistema comune, questa tecnologia comune che permette di far sì che il bagaglio viaggi in maniera trasparente qualunque sia il vettore. Certo. Quindi ci sono alcuni esperimenti. Delta, questa compagnia americana, è abbastanza in anticipo e lo ha fatto per una categoria di viaggiatori su qualche tratto aereo. Certo. La tecnologia funziona perfettamente, il costo è un po' alto, il costo unitario, ma appena si cresce sul numero di utenti. Certo, perché queste etichette hanno un costo. Sì, sì, sì. Però qualche euro a persona, però in confronto al costo di perdere il bagaglio, si calcola che il business case possa essere positivo. Interessante, quindi questa è una prospettiva molto molto interessante. E qui siamo entrati nel mondo dell'IoT, esatto. Internet of Things, in questo caso la Things, cioè l'oggetto e la valigia. Esatto, la valigia che diventa un oggetto intelligente che comunica. Si considera un oggetto intelligente un oggetto che può comunicare e ricevere informazioni, no? E lei sa che si calcola che fra qualche anno Internet of Things farà sì che ci saranno 25 miliardi di oggetti connessi. Sì, c'è chi dice 50 miliardi, qua si sprecano le previsioni. Esatto. Tanto verremo smentiti fra 5-10 anni, se verremo smentiti. Sì, sì, assolutamente. Comunque l'idea di creare oggetti connessi, come il bagaglio, veramente è da un servizio all'utente finale, al passeggero finale, che è ottimo. Poi io direi, se si prende in considerazione il fatto che il 97% dei passeggeri che viaggia in aereo ha uno smartphone, il passeggero è connesso, per definizione, visto che con lo smartphone lui vuole avere accesso a un'informazione che è pertinente per lui. 97% dei passeggeri in un aereo ha uno o più smartphone, tablet, eccetera, eccetera. E quindi anche questo è una cosa da sfruttare. Dare anche informazioni al passeggero che siano pertinenti su dove si trova. E qui si può parlare delle tecnologie dei beacon, sono queste chips che sono messe, per esempio, negli aeroporti per dare un'informazione che sia relativa al posto dove si trova l'utente, dove si trova il passeggero. E quindi si può dire al passeggero: guardi, lei sta aspettando nel gate sbagliato, lei deve rendersi in un altro posto, oppure lei mentre sta aspettando qua c'è il bar lì di fronte che le può dare una promozione sul panino e la Coca-Cola, e quindi dare informazioni che siano veramente relative alla situazione nella quale si trova il passeggero mentre è in attesa o mentre sta per imbarcarsi. Queste sono cose che state già facendo? Anche qui stiamo parlando solo di esperimenti o di prospettive? Allora, questo stiamo facendo non lontano da qui, all'aeroporto di Nizza. L'aeroporto di Nizza è stato equipaggiato con tutta una serie di queste chips, questi beacon. Sì, sì, beacon, lo ricordiamo agli ascoltatori, sono delle antennine, potremmo dire, tipicamente Bluetooth, o comunque si possono utilizzare anche Wi-Fi, anche in alcuni grandi negozi, in grandi catene, si sta cominciando a utilizzare questa tecnologia, e io con lo smartphone posso essere, diciamo, geolocalizzato anche all'interno, quindi in ambienti dove il classico GPS o fra qualche anno Galileo non ci geolocalizza, perché all'interno, quindi questa tecnologia viene utilizzata. Quindi a Nizza che cosa succede? Succede che se uno decide di iscriversi a questo servizio, e in genere il passeggero lo fa in maniera molto positiva, essendo localizzato si può dare un bel livello di informazione al passeggero, dirgli dove si trova il gate d'imbarco, dargli informazioni su quello che si trova intorno a lui in termini di shopping, in termini di informazione, se c'è una coda, se bisogna aspettare più tempo per passare tale controllo, e quindi si dà veramente un'informazione pertinente, utile al passeggero quando è all'aeroporto, e gli si può dare anche l'informazione sul suo bagaglio. Quindi veramente il passeggero è molto più a suo agio. Sì, interessante, anche perché immagino ci sia una parte di queste informazioni possono essere utilizzate anche dall'aeroporto. sapere dove si trovano le persone, quante persone sono in una posizione piuttosto che in un'altra posizione, può essere utile per gestione, non so se si possa fare oggi, ma come prospettiva nei prossimi anni. Esatto, e anche per fluidificare il traffico. Capita molto spesso che manchino sempre uno, due o tre passeggeri al momento della chiusura dell'imbarco. Sapere dov'è il passeggero è un'informazione molto utile per magari andarlo ad aiutare e cercarlo per farlo imbarcare rapidamente. Sì, sì. Questo è anche un elemento di fluidificazione del traffico, quindi molto molto utile per il settore aereo. Visto che abbiamo parlato di automazione, uno dei termini che vengono spesso associati ultimamente all'automazione è l'intelligenza artificiale. E già pensando a questo esempio, cioè sapendo dove si trovano le persone, anche in maniera forse automatica si potranno, forse non ancora oggi, automatizzare alcuni processi, far scattare alcuni allarmi, cioè se ci sono troppe file da una parte, sì, è vero, gli uomini se ne possono accorgere, ma si possono anche far scattare una serie di situazioni in maniera automatica. Che cosa, a proposito di intelligenza artificiale, giusto per dare sempre delle prospettive, che cosa si sta facendo e che cosa si potrebbe fare? Noi pensiamo che l'intelligenza artificiale sia una delle tecnologie che può portare frutti rapidamente e in maniera visibile per i clienti del settore aereo rapidamente. La prima cosa è la gestione della relazione col passeggero, col cliente. Nel senso che l'intelligenza artificiale diventa l'interfaccia con l'utente. Quindi ci sono quelli che si chiamano questi chatbot che permettono di prendere per mano il passeggero, dargli informazioni che sono relative al proprio viaggio, proporre alternative, per esempio l'aereo è in ritardo. Qui l'intelligenza artificiale può spiegare al passeggero che ovviamente l'aereo è in ritardo, che magari può prendere un'altra connessione, che il costo di questa connessione è tale, e aiutare il passeggero a gestire una perturbazione in maniera lineare, anticiparla, portargli informazioni che siano utili e magari anche aiutarlo a risolvere i problemi che sta attraversando. E qui ci sono degli esperimenti che sono veramente molto positivi, per esempio KLM che ha creato questo assistente virtuale che è capace di anticipare e rispondere a più di 60.000 casi diversi, quindi sono veramente casi importanti. Questo, il primo angolo, è la relazione con il cliente, quindi proprio l'assistente virtuale. Certo, quindi creare una sorta di affidabilità di questi sistemi tali per cui io mi fido. Esatto. E non sono sospettoso se mi arriva un messaggio, oppure addirittura, immagino fra qualche anno forse, o forse anche meno, il mio telefono che mi parla e mi dice: guarda che il tuo aereo è in ritardo, quindi non correre, prenditela comoda. Esatto, assolutamente, assolutamente. Questo, quindi è proprio avere questa relazione personalizzata con l'utente, col passeggero, grazie a questa tecnologia. L'altro angolo è quello di una migliore pianificazione. Sì. Questo lo stiamo facendo noi come SITA all'aeroporto di Singapore. È una zona in cui ci sono un po' di tempeste, il clima è un po' a volte difficile anche per il trasporto aereo. La capacità a, tramite l'intelligenza artificiale, anticipare l'impatto di una perturbazione, calcolare l'impatto su tutti gli altri aerei, su tutto il resto del traffico, è una porta molti elementi positivi, ovviamente. Sì, molti benefici. Molti benefici. E oggi l'aeroporto di Singapore calcola che grazie a questa intelligenza artificiale è capace di avere una visione con 4 ore di anticipo della situazione che verrà a prodursi quando una perturbazione si crea. Sì. E questo permette una pianificazione molto più intelligente, permette di dare un'informazione al passeggero molto più in anticipo, spiegandogli che non è necessario che venga in aeroporto perché tanto il volo sarà ritardato di 4 ore. Permette anche una pianificazione di tutti i prossimi voli, di tutte le organizzazioni da fare per permettere al volo di ripartire, eccetera, eccetera. E quindi questo al di là anche del consumo energetico minore, perché si chiede a un aereo di non volare finché non si ha il clearance perché possa viaggiare, permette di ottimizzare la fluidità del traffico aereo in maniera abbastanza importante. Questa è una cosa molto complessa, perché riguarda traffico aereo, riguarda la infrastruttura aeroporto, il rapporto con i passeggeri, cioè una cosa... È una pianificazione fine, difficile. Sì, sì. Sì, ma... tra l'altro in questi casi, quando uno parla della capacità di sistemi di intelligenza artificiale di pianificare e di prevedere, una delle domande è: ma come fa? Molto complesso da spiegare, anzi forse quasi impossibile da spiegare, però poi il risultato è che effettivamente questi sistemi sono in grado di prevedere, ricalcolare, ripianificare tutta una serie di condizioni in modo molto efficiente. Sì, sì. E l'aeroporto di Singapore lo sta già facendo? Stiamo ancora parlando di una sperimentazione, quindi i risultati sono, come dire, solo per gli addetti ai lavori per il momento, o c'è già un risultato per il passeggero finale? No, no, l'aeroporto di Singapore l'ha implementata questa tecnologia e considera oggi che ha questa visibilità di 4 ore, mentre prima di questa tecnologia l'aveva solamente di 30 minuti. E come fa questa tecnologia? Beh, si basa sul fatto di imparare su una base dati reale del passato, che è enorme. E quindi sulla base di questi dati passati crea regole, impara meccanismi che gli permette di prevedere il futuro con più efficacia. Certo. Poi non è detto che ci prenda sempre, però per fortuna, certo. Per fortuna per adesso, non lo so, fra qualche anno forse ci stupiremo del fatto che ci prende sempre, quindi noi diventiamo, abbiamo raccontato molte cose, ovviamente tutto ciò, ma lo diciamo, ma è ovvio, va fatto con la massima sicurezza, quindi anche in ambito cyber security ci sono, immagino, degli investimenti molto forti di tutto il settore, non solo vostri. Assolutamente. Il settore aereo investe in tecnologia 33 miliardi di dollari all'anno, una crescita del 5% in media, 4-5% all'anno, quindi un investimento veramente importante. Sì. Il 95% delle compagnie aeree, degli aeroporti, investe in cyber security. Si calcola che ci sono in media più di 1000 attacchi cyber, quindi cyber, sì, nel mondo del settore del trasporto aereo al mese. Quindi ovviamente la sicurezza e la cyber security sono elementi fondamentali, e SITA anche da questo punto di vista ha creato una joint venture con Airbus per proprio aiutare su questo tema della cyber security, che è fondamentale. Che è fondamentale, perché è una minaccia effettivamente reale. Bene, in attesa di provare uno dei varchi, uno dei gate con il riconoscimento biometrico, ancora non li ho provati, sono curioso di fare la prova per provare questa fluidità. Io ringrazio Sergio Colella per essere stato con noi, buon lavoro e immagino buon viaggio. Ah sì, assolutamente. È vero che lei si occupa solo dell'Europa, tra virgolette, ma mi sembra di capire che l'Europa per voi è una bella fetta di mercato. Sì, sì, sì, io sono spesso in aereo, che mi permette anche di testare le nostre prove, tecnologie. Esatto. A presto, buon lavoro. Grazie a lei. Dagli aeroporti ci spostiamo su una nave da crociera, un settore che sta crescendo tantissimo, ma anche un settore molto tradizionale, dove la tecnologia solo da poco ha cominciato a spingere l'innovazione digitale. Questa settimana è stata lanciata ufficialmente una nuova mega nave di MSC, la Seaside, costruita da Fincantieri in Italia, che condensa alcune delle maggiori innovazioni del settore. Partendo, pensate, da due enormi data center, sono ridondati, uno a prua, uno a poppa, uguali, in caso di emergenza l'uno può coprire l'altro, tutto per gestire terabyte di dati su tutto quello che accade a bordo. Pensate che ci sono 665 access point wifi, 1200 videocamere, quasi 300 monitor, molti di questi sono interattivi per dare informazioni ai passeggeri, e 3275 antenne Bluetooth, beacon Bluetooth, per geolocalizzare a bordo i passeggeri. Di questo parleremo tra poco, e di questo ho parlato con Luca Pronzati, che è il responsabile dell'innovazione di MSC Crociere. Il concetto che ci sta guidando in realtà è e sono le aspettative del consumatore, chi viene a bordo delle nostre navi. Ed è un concetto che è partito più di 3 anni fa, anzi 4 direi, quando si è affrontato la fase progettuale delle nuove navi che sarebbero state costruite a partire dal 2017. E lì comunque all'interno comunque della nuova esperienza che si stava disegnando ci si è chiesto anche come e quali sarebbero state le aspettative del consumatore futuro e come avremmo potuto far leva sulle nuove tecnologie per cambiare il paradigma dell'esperienza del cliente a bordo delle navi da crociera. In realtà noi viviamo una vita giornaliera dove siamo sempre connessi, facciamo uso continuo dello smartphone come uno strumento ormai di vita e quindi per esempio una delle idee che ci ha guidato è stata quella di riflettere sul fatto che comunque anche l'esperienza a bordo delle navi da crociera non poteva essere un'esperienza disconnessa. In realtà siamo andati molto più a fondo di questa fase iniziale di scouting, di analisi, perché abbiamo sia raccolto le opinioni, i feedback dei vari consumatori di differenti nazionalità, perché noi siamo la società di crociera più internazionale al mondo, quindi abbiamo avuto la fortuna di poter intervistare dei nostri clienti, ma altresì ci siamo chiesti e siamo andati a mappare, per esempio, sul ciclo di vita del cliente, quindi sui vari customer journey, quali fossero, per esempio, i punti di friction, diciamo i punti in cui i momenti dell'esperienza che dovevano essere migliorati per renderla sempre più esclusiva, sempre più rilassante. Parliamo di crociere, parliamo del periodo più importante dell'anno, parliamo di vacanze, quindi un consumatore che vuole rilassarsi, vuole godersi a fondo e a pieno un'esperienza a bordo delle nostre navi. Ed ecco lì che allora nella fase iniziale, che è stata una fase abbastanza lunga e corposa, che ha coinvolto dagli architetti, ai membri dell'equipaggio, a società di consulenza esterne, ai clienti stessi, abbiamo riflettuto molto proprio per cercare di identificare quali fossero veramente i punti cardine dell'esperienza su cui investire e, facendo leva sulle tecnologie, offrire un qualcosa di completamente differente e innovativo. Quali sono questi punti? Ma guardi, le faccio degli esempi concreti. Lei giustamente nell'introduzione che ha fatto citava il fatto che le crociere sono sempre state particolarmente tradizionaliste come prodotto, ed è vero. Ed è talmente vero che noi siamo tutti abituati a prendere N aerei durante la settimana o durante un mese, e ormai per noi imbarcare su un aereo utilizzando QR code è una banalità. Ecco, io le dico che in un porto, l'imbarco in un porto dove raggiunto dalle navi da crociera, imbarcare con un QR code è una novità assoluta, perché nessuno l'aveva mai fatto, perché comunque le autorità portuali hanno un approccio completamente diverso rispetto al mondo aeroportuale, sono decisamente più indietro, se vuole, anche dal punto di vista tecnologico, e quindi per noi aver raggiunto questo obiettivo è già stato una milestone estremamente importante. Ma il paradigma più grande che abbiamo completamente stravolto e trasformato con l'MSC4Me, questa nuova esperienza digitale che abbiamo lanciato a bordo di MSC Meraviglia a giugno e adesso qui sulla Seaside a Miami, è il fatto che abbiamo avvicinato il consumatore alla nave e all'equipaggio per riuscire a dare riscontro di qualsiasi necessità questo consumatore abbia in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo della nave. Infatti abbiamo citato un'app, quindi già in questo caso ci avviciniamo all'esperienza quotidiana. Noi utilizziamo tantissime applicazioni, questa è un'applicazione, e stiamo parlando di smartphone, che anche in questo caso è un'esperienza, insomma, io non so qual è la percentuale di passeggeri che ha uno smartphone, ma penso che sia molto molto elevata. Questa accoppiata messa all'interno di una barca, di una nave che poi adesso raccontiamo, è piena di antenne che ti geolocalizzano, che cosa ti permette di fare? Si può prenotare servizi, si può recuperare qualsiasi tipo di informazione sulle attività che si vanno in onda in ogni momento sulla nave, si può utilizzare un servizio estremamente innovativo di cui siamo estremamente fieri, che è il wayfinding dinamico, quindi la possibilità di essere guidati all'interno all'interno della nave per trovare le varie location, per trovare la cabina, per trovare gli ascensori più vicini, le toilette più vicine. Un navigatore sull'app, sulla nave. Un navigatore sulla nave, però qual è la complessità di questa tecnologia? Prima di tutto è molto simile a Google, ma non è Google Maps. Non utilizza il segnale GPS perché la nave è fatta di ferro e quindi il segnale viene automaticamente tagliato dopo il primo ponte. Quindi cosa abbiamo dovuto fare? Ci siamo dovuti realizzare un'infrastruttura sulla nave fatta di più di 3.000 beacon che sono stati opportunamente installati secondo una pianificazione estremamente accurata, per consentire di triangolare la posizione e di fornire all'app un sistema per guidare dinamicamente il cliente verso la destinazione di interesse. Questa è una applicazione che mi permette di sapere la mia posizione. Voi potete sapere dove io sono passeggero e dove sono i passeggeri, perché penso che questo tipo di informazione possa servirvi aggregando tanti punti e tanti passeggeri per, ad esempio, la gestione di tutto quello che accade su una nave. Sì, lo possiamo sapere, ovviamente la piattaforma che abbiamo implementato, anche grazie appunto al supporto di HPE di un'altra ditta che si chiama Favendo, ci ha dato accesso a un back-end che consente ai nostri operatori, se necessario, di poter tracciare dove sono i nostri clienti in giro per la nave. Una cosa simile l'abbiamo, ma ancora più complessa, se vogliamo, evoluta, l'abbiamo lanciata, la stiamo lanciando sui kids, sui bambini, per cui abbiamo sviluppato un braccialetto ad hoc che ha due chip, uno BLE e l'altro NFC. E il chip BLE attivo ci consente ci consentirà di fornire ai genitori la possibilità, sempre tramite l'app, di tracciare, di sapere dove sono i bambini a bordo. E questo è, di nuovo, se volete, in un'ottica di rimuovere ulteriormente un momento di stress, per esempio per le famiglie, quando i genitori vogliono magari godersi un po' di tempo libero sulla nave. Ah, ma dov'è mio figlio? Dove sarà andato? E allora sei preoccupato, inizia l'ansia. Invece poter aprire un'app, sapere dov'è il proprio figlio, localizzarlo e dopodiché rilassarsi e continuare a vivere l'esperienza è un valore aggiunto. Noi riteniamo che questi sono tutti i servizi che stanno veramente elevando e migliorando l'esperienza a bordo. A sapere le informazioni di dove sono le persone, aggregandole e magari vedendo che in quel momento ci sono troppe persone da una parte e magari da un'altra parte meno persone, è una cosa che già state facendo o farete in futuro? Allora, dipende per quale obiettivo. Se parliamo da un punto di vista di safety e security, è una cosa che stiamo già facendo, perché per noi la sicurezza dei nostri clienti è la priorità numero uno da sempre. In realtà, se vogliamo invece pensare a un'elaborazione dei dati dei dati di geolocalizzazione dei clienti in un'ottica di sviluppo di un'esperienza ancora più personalizzata, è una cosa su cui ci stiamo lavorando e che contiamo di lanciare molto probabilmente dopo la Sea View, sicuramente probabilmente per la bellissima, quindi la nave del 2019. Sì. C'è un'altra tecnologia che voi state sviluppando che vi permette di sapere se sfortunatamente qualcuno finisce in mare, cosa che ogni tanto succede. Sì, questa è una tecnologia, è una prima mondiale nel settore delle crociere che abbiamo lanciato sull'MSC Meraviglia, che è entrata in servizio a giugno di quest'anno ed è la prima delle quello che noi chiamiamo Smart Ship. E questa nave è dotata di tutto un sistema di telecamere sensoristiche di differente natura che tramite appunto un sistema dell'HPE ci consente di monitorare e venire immediatamente informati tramite degli alert nel centro di controllo che è su dal ponte di comando nel caso in cui sfortunatamente un passeggero dovesse cadere, quindi uscire fuori dal perimetro della nave. Giorno e notte? Ecco, questa è la complessità ed è per quello che si è deciso di installare differenti sensori oltre anche differenti modelli di telecamere, proprio perché le condizioni in navigazione cambiano molto tra la giornata e la notte, quindi c'è il discorso della nebbia, dell'umidità, la visibilità che si abbassa, il buio. Questo sistema funziona giorno e notte. È incredibile. È veramente incredibile, è stata una sfida estremamente complessa, ci è voluto tanto tempo, abbiamo lavorato proprio a stretto giro in partnership con HP per fare tutta la fase di ottimizzazione, di fine tuning del sistema, ma devo dire che abbiamo raggiunto già un ottimo risultato. Ovviamente, come sempre, non ci fermiamo qua, guardiamo avanti, andiamo avanti e siamo sempre pronti a investire su nuove tecnologie. Posso fare una domanda sul tema automazione? Che cosa si può automatizzare su una nave? Beh, io immagino ci sono già delle sperimentazioni sulla guida autonoma, ma probabilmente ci vorrà ancora molto tempo. Che cos'altro si può automatizzare? Ma guardi, allora, una nave da crociera è una città galleggiante, quindi si può automatizzare di tutto. Allora, se lei pensa che su una nave come questa noi serviamo più di 5.000 pasti a pranzo e a cena, abbiamo un buffet che è aperto 22 ore su 24, ecco lì che anche solo nell'area e nell'ambito della preparazione del cibo stiamo già ragionando su una serie di processi che vorremmo automatizzare facendo leva su delle tecnologie che già si utilizzano nel settore, ovviamente per migliorare l'efficienza del processo. Ma ci sono altri ambiti, per esempio c'è tutta la gestione dei rifiuti. È una città, quindi ha tantissimi rifiuti che devono essere differenziati e trattati con degli standard che sono ancora più elevati di quelli che si seguono a terra. E quello è di nuovo un altro ambito. Le faccio un altro esempio, c'è tutto il tema del tracking del bagaglio, quindi il passeggero che arriva al porto lascia il bagaglio e noi che è tutto il processo di gestione, di imbarco e di consegna in cabina. Sono tanti gli ambiti su cui stiamo ragionando, c'è tutto anche il tema per esempio della gestione di nuovo delle cambuse di bordo, quindi dove ci sono tutti vengono storati tutti i cibi, meno che tutti i materiali necessari alla vita della nave. Però da questo punto di vista ci sono solo delle sperimentazioni o comunque dei progetti, nulla di concreto ancora oggi. Allora, stiamo partendo, abbiamo le idee abbastanza chiare, è un tema anche di capacità e di priorità nel fare le cose. Ad oggi abbiamo ancora ampi spazi sull'ambito dell'esperienza cliente, per cui stiamo in qualche modo prioritizzando gli investimenti, non solo in termini economici, ma quanto più anche in termini proprio di capacità di esecuzione su quell'ambito lì, ma stiamo partendo in parallelo anche sull'ambito, quello che si vede meno, lasciatemi dire, no? Quello che è below the line, che però ci aiuta sicuramente a migliorare ulteriormente il servizio. Un'ultima domanda, tornando ai beacon, a queste più di 3.000 antennine Bluetooth che ci sono sparse per la nave. Una cosa simile sta avvenendo anche in molti locali sulla terra, supermercati, centri commerciali che stanno installando questo tipo di antenne per fare marketing geolocalizzato. Passi davanti alla gelateria e ti arriva un'informazione che ti dice: guarda che per 2 ore c'è il gelato a metà prezzo. Insomma, questo potrebbe essere un esempio. Fate già cose del genere o le farete? No, allora le faremo e anche lì ci stiamo già lavorando. Quello che abbiamo fatto oggi, lanciando l'MSC4Me, abbiamo, come si suol dire, gettato le fondamenta per tutta una serie di progetti di evoluzione future che saranno tutti orientati nell'ambito della personalizzazione dell'esperienza del cliente e quindi legato anche alla geolocalizzazione a bordo. Questo si porta dietro delle tematiche molto complesse relative ai big data e all'artificial intelligence su cui stiamo lavorando, con la differenza che, come dicevamo, essendo su una nave da crociera che è paragonabile a una città galleggiante, ma con la complessità che navigando sull'oceano non può fare affidamento sui servizi cloud, ed ecco per quello che abbiamo 2 data center indondati, e allo stesso modo dovremo lavorare tutti i dati che si generano sulla nave per essere in grado di ingaggiare in maniera personalizzata e geolocalizzata il cliente nel futuro. È una cosa su cui stiamo lavorando e contiamo di lanciarla nel 2018, fine 2018, inizio 2019. Sì, non usate il cloud anche e soprattutto perché la connettività non è che avete la fibra ottica che vi insegue per il mare, no? No, Allora, noi facciamo la nostra connettività avviene tramite la connessione satellitare. Connessioni satellitari ad oggi sono ancora estremamente care, ovviamente care se si pensa a un utilizzo di banda estremamente ampio. Stiamo lavorando comunque per velocizzare i tempi di latenza nelle risposte con i satelliti, e questo avverrà a brevissimo. Tuttavia, per un utilizzo massivo, che è quello che sarebbe necessario su tutto l'ambito dei big data, ad oggi partiremo ancora on-premise. Ed è tutto per questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione, ovviamente questa settimana in questa puntata aggiungo anche gli auguri di Buon Natale, di buone feste, noi ci risentiamo la prossima settimana, grazie per aver scaricato la nostra versione podcast, il nostro super podcast, continuate a scriverci, anzi ringrazio tutte le persone che ci scrivono raccontando come ascoltate 2024, direi che nella nostra classifica oltre a quelli che fanno sport, che forse sono i primi come numero di persone che ascoltano 2024 mentre fanno sport, c'è una bella percentuale di persone che a vario titolo fanno cose in casa, dalle pulizie, la preparazione del cibo, lavori di hobby vari, oppure lavoretti per sistemare, ridipingere le pareti, oppure altre attività che si fanno in casa. Appuntamento alla prossima settimana.